108. Crostini di capperi. Capperi sotto aceto, grammi 50. Zucchero in polvere, grammi 50. Uva passolina, grammi 30. Pinoli, grammi 20. Prosciutto grasso e magro, grammi 20. Candito, grammi 20. I capperi, tritateli all'ingrosso. L'uva passolina, nettatela dai gambi e lavatela bene. I pinoli, tagliateli per traverso in tre parti. Il prosciutto, foggiatelo a piccolissimi dadi. Ed il candito, riducetelo a pezzettini. Mettete al fuoco, in una piccola cazzaruola, un cucchiaino colmo di farina e due del detto zucchero. E quando questa miscela avrà preso il color marrone, versate nella medesima mezzo bicchier d'acqua mista a pochissimo aceto. Quando avrà bollito tanto che i grumi siensi sciolti, gettate nella cazzaruola tutti gli ingredienti in una volta e fateli bollire per 10 minuti, assaggiandoli nel frattempo per sentire se il sapore dolce e forte sta bene. Non v'ho precisato la quantità di aceto necessaria, perché tutte le qualità di aceto non hanno la stessa forza. Quando il composto è ancora caldo, distendetelo sopra fettine di pane fritte in olio buono o semplicemente arrostite appena. Potete servire questi crostini diacci anche a metà del pranzo per eccitare l'appetito dei vostri commensali. Il miglior pane per questi crostini è quello in forma all'uso inglese. 109. Crostini di tartufi. Prendete a preferenza i bastoncini di pane e tagliateli a fette diagonali. In mancanza di essi, preparate fettine di pane a forma elegante, arrostitele appena e così a bollore ungetele col burro. Sopra di esse distendete i tartufi preparati nel modo descritto al numero 269 e bagnateli con l'intinto che resta.